Nel 2010 l'Unione Europea decise che per far crescere l'economia continentale e creare nuovi posti di lavoro era necessario promuovere un vasto programma per sviluppare l'economia digitale. Il piano si chiama Agenda Digitale e pone obiettivi ambiziosi per il 2020, 101 azioni che toccano tutti i settori privati e pubblici. Ogni nazione avrebbe dovuto o dovrebbe declinare queste azioni in un piano nazionale coerente con quello di Bruxelles. Non tutti lo hanno fatto e noi siamo, indovinate, tra i ritardatari. Il 9 febbraio, quasi due mesi fa, a Roma c'è stata la prima riunione di quella che è stata definita cabina di regia per l'agenda digitale italiana. Tre ministeri coinvolti, sviluppo, funzione pubblica e istruzione, che entro giugno dovrebbero varare il decreto Digitalia, norme in materia di connettività per azzerare il digital divide, pubblica amministrazione digitale, sanità, pagamenti, commercio elettronico, eccetera. Fra poco dovrebbe andare in linea un sito web per seguire i lavori e speriamo poter proporre le proprie idee. Ma visto che mancano tre mesi alla fine di giugno, da più parti arrivano sollecitazioni al governo perché rispetti i tempi e fra nove giorni Confindustria Digitale farà il punto al primo forum sull'agenda digitale italiana. Nei prossimi giorni lo faremo anche a Radio 24. Domani i progetti per portare internet veloce in tutta Italia. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.